Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Oggi vi voglio svelare 10 facilissimi trucchi per trovare i soldi e viaggiare e non dover passare tutta la vacanza in ansia per 2 centesimi risparmiati di un panino. Vivendo in una società consumista, noi siamo pieni di vizi: e il caffè, e la colazione al bar, e la sigaretta. E riducendo questi vizi del 50%, non dico totalmente, oh, smettete di fare qualsiasi cosa. Una cosa che aiuta è tenere nota di quello che si spende. Ci sono vari metodi, c'è un metodo giapponese che si chiama Kakebo, che tra l'altro viene anche venduto su Amazon, magari vi lascio il link in descrizione, oppure potete semplicemente scaricare un'applicazione dedicata ai risparmi. Evitate i pranzi e le cene fuori al ristorante, risparmiate tantissimo perché basta andare al supermercato. Come sono cambiati i tempi. Una ragazzina su YouTube fa un tutorial come andare in vacanza con poco prezzo e tira fuori il Kakebo, che è un sistema per risparmiare. Come se noi avessero detto a 16 anni mettete i soldini nel salvadanaio così andrete in vacanza. Ma figuriamoci, si faccia qualche lavoraccio schifoso l'ultimo mese, tanto mette insieme 4 soldi e si partiva per vacanze massacro. Il principio era: andiamo laddove si spende meno, andiamo laddove si scrocca di più, andiamo usando tecniche di massacro martorianti, ma andiamo. Giravamo l'Europa con pacchi di spaghetti dentro lo zaino, con barattoli di conserva di pomodoro, facendo l'autostop, insomma eravamo veramente dei micragnosi, ma mica perché ci piaceva la micragna, perché non ce li davano i soldi o poi non c'erano, non è che erano sempre tempi delle vacche grasse. Beh, oggi devo dire, l'ho già confessato alla collega del giornale radio, come mia estrema debolezza, faccio spesso questi micro outing che danno modo di saggiare quelli che sono i limiti anche di un conduttore radiofonico, che questo è il periodo peggiore dell'anno per me. Perché? Perché mi sento come la piccola fiammiferaia stesa fra la neve che sta morendo dal freddo, vede tutti che girano con capponi, tacchini, regali, cornucopie, perché tutti festeggiano il Natale. Qua tutti stanno pensando andare in vacanza, tutti, da coloro che ricoprono i ruoli più alti nella società e nell'opulenza del paese a coloro che hanno dei magrissimi stipendi, tutti, persino Intonti sta lì con il telefonino in mano a cercare qual è l'occasione migliore per andare a fare un viaggettino spendendo meno, si becca l'ultimo, si becca quell'altro. Beh, tutti sono organizzati meno che io, perché io ho una sorta di genetica e fisiologica repulsione alla vacanza, non riesco a pensarci prima. Poi forse quando sarà il momento qualcosa mi inventerò, ma saranno già tutti partiti e sarò solo e passerò per il terzo, quarto anno l'estate chiusa nel mio studio, mi inventerò qualcosa, scriverò un libro, magari sarò felice. Beh, detto questo, in realtà il vero problema è che la vacanza è qualcosa in più, è qualcosa che nella media comunque richiede uno sforzo, richiede un budget aggiuntivo, richiede di pensarci prima. Con l'avvento di internet, pensarci prima significa in tempo prenotare viaggio, prenotare biglietti, prenotare la soluzione migliore. Questo è riservato a coloro che hanno questa sorta di attitudine digitale a cercare l'occasione migliore. Gli altri che fanno? Ma gli altri si arrangiano. Gli altri hanno vari sistemi, e questo oggi vorrei capire. La vacanza degli arrangiatori, di quelli che arrivano all'ultimo momento, che non ci hanno pensato, che non sono bravi, non sono delle brave formichine, hanno messo da parte i soldini tutto l'anno con il metodo impronunciabile che dice la ragazzina su YouTube, e che hanno già fatto tutti i discorsi con gli amici, sono organizzati come Verdone: tu prendi la macchina, mettiamo la benzina, poi ci fermiamo in quel posto. No, questi non mi interessano, mi interessano quelli disperati come me, che partiranno magari verso il 13 agosto e avranno 4 soldi in tasca, non sapranno che fare, confideranno sulle amicizie. Cosa si fa in questi casi? Si scrocca, si fa l'elenco di tutti quelli che hanno una casa al mare in montagna, che magari non vediamo da anni o magari non sono poi tanto amici, e si fa l'improvvisata, si chiama. L'altro giorno una mia collega mi raccontava con le lacrime agli occhi di un noto personaggio dell'informazione pubblica nazionale, non posso fare nomi perché lo conoscono tutti, dice: ma pensa te, con i soldi che hai è uno scroccone, l'estate lo trovi sempre davanti casa, viene sempre con le valigie, con una scusa o l'altra, comunque sta una settimana da me, una settimana da quell'altro, e non tira fuori un soldo. Ne conoscete di questi tipi? Poi ce ne sono altri, sono quelli che vanno in vacanza con un amico, con un'amica, e si scelgono la fidanzata tanto bene per andare in vacanza. Poi quando vanno in vacanza con la fidanzata, in realtà capisce, colei che era assetata di una storia amorosa, che in realtà cercava uno per dividere a metà il budget, e si paga tutto come le formichine. Tu hai preso soltanto il primo la frutta, io ho preso il primo senza frutta, quindi io devo mettere due dracme in meno, che ne so, le dracme non esistono più, però qualcosa del genere, capito? Vedete come sono retro anche nelle mie scelte vacanziere. Beh, quale vacanza avete fatto anche in passato per risparmiare? Quale tecnica avete scelto del risparmio? Senza vergogna di chiamare e sottolineare le vostre vacanze come vacanze micragnose, questa mattina dateci veramente quelli che sono i lumi della saggezza di chi va in vacanza e non può spendere o semplicemente non vuole spendere. A tra poco. Melog, cronache meridiane. E ho avuto questa esperienza molto particolare del cammino di Santiago, affrontato da ateo e laico, nato proprio come una sfida fisica, ma le conclusioni poi sono state appassionanti, perché mi sono trovato a fare un turismo particolare, in ambienti particolari e soprattutto circondato di persone bene o male già selezionate dalla scelta. Ottimo stratagemma, condivido. Si finge improvvisamente una conversione mistica. Improvvisamente si è bestemmiato, fatto sconcezze, rubato, tradito, smaialeggiato tutta la vita. Non si vuol fare una vacanza a poco prezzo, ma si vuol salvare la faccia con gli amici. Che si fa? Ah, mi sono convertito, ho peccato tutta la vita, voglio naturalmente ringraziare di questa mia conversione, anch'io ho trovato la luce sulla via di Damasco, vado a fare il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio funziona bene da questo punto di vista: primo, si va sempre a piedi, quindi si risparmia comunque nei mezzi di trasporto; seconda, si sta insieme a delle persone che si vogliono mortificare, quindi si mangia schifezze, pane e acqua, cose molto frugali, si dorme in degli ostelli lungo la strada, su dei rudi sacchi a pelo, anzi addirittura sui sassi, per avere più senso di espiazione. Quindi un consiglio: non volete fare la figura dei micragnosi, convertitevi e partite a fare un pellegrinaggio. Troverete delle persone ben intenzionate, che magari sono tutti come voi, sono dei gaudenti che non possono fare la figuraccia di non andare in vacanza, si possono chiudere nel garage come nel noto film con tutta la famiglia e starci una mesata. Si fa una bella passeggiata, si respira l'aria e poi si può sempre cogliere qualche momento di pentimento di qualche compagna di viaggio o compagno di viaggio che magari viene colto dall'assatanamento satanassico durante il cammino di espiazione. Lucio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, come va? Tutto bene? Ma mica tanto, preferivo che fosse settembre. Comunque andiamo avanti. Boh, per me è un problema davvero, sto soffrendo, confesso. No, niente, in Sicilia è già estate, quindi praticamente fra qualche giorno arriveranno i miei amici, le mie cognate vietnamite. Perché lei ha una casa vicino al mare? Sì, sì, è una casa proprio. E quindi io ho tutti amici suoi di questo periodo? No, guarda, arriva le mie cognate vietnamite, quindi le sorelle di mia moglie. Dal Vietnam vengono, sì. Dal Vietnam, sì, là però è il periodo dei monsoni, quindi non è un tempo molto... diciamo. Non può nemmeno fare scambio di casa, adesso che va a fare? Prendersi il monzone, deve per forza stare con le cognate. No, vabbè, vado là in inverno, chiaramente, abbiamo anche la casa là. Ah, quindi lei d'inverno si va a prendere l'estate lì? Poi c'è mio figlio americano che viene da Tucson, da una relazione prima del matrimonio. Ah sì, vabbè, l'ha seminato a Tucson, e va bene. E poi arrivano i miei amici francesi, i miei commilitoni. Sì, ecco perché lei ha fatto legione straniera, come mai amici francesi? Sì, lui. Sì, non potevo che l'ho beccata subito, moglie vietnamita, figlio in America, è chiaro, legionario. Bene, allora diciamo, questo è il riposo del legionario. Il legionario a un certo punto, dopo le battaglie, posa il suo sacco, la sua bisaccia, dove dentro naturalmente non troverete altro che qualche oncia di tabacco, perché i soldi se li spesi tutti con donne di piacere, come dice la nota canzone del Major del Mercenario, capito? E quindi lei diventa praticamente una sorta di ostello per tutta la sua famiglia internazionale. Abbiamo una casa grandissima, 500 metri quadrati, pian terreno in primo piano. Ma chi paga tutto questo bel viaggio, tutto questo per lei? Ma va bene, loro vengono, contribuiamo, non è che stiamo male economicamente. Quindi... Beh, grazie, lei tutta la vita, il mercenario mica si fa per la gloria, si fa per denaro. Sennò... Andiamo a pesca insieme, ci divertiamo. Lei pesca naturalmente con la fiocina, con il coltello fra i denti, insegna... Pesca subacquea. Subacquea, certo, senza bombole naturalmente. non si può con le bombole. No, ma per dire. Va sotto con il coltello fra i denti, prende uno squalo e lo porta su. Magari l'ha fatta fare il legionario, scusi, almeno questo. Vabbè, comunque è bellissima questa cosa. Lei, diciamo, è il parente ideale di tutti quelli che non vogliono spendere. Questi signori prenderanno il biglietto un anno prima, vengono dal Vietnam, stanno bene, stanno al sole, tornano tutte abbronzate. Il figlio dall'America se ne va in Sicilia e è perfetto. Lei tutto sommato ha questa gioia cosmopolita, però mi serve l'altro versante, coloro che approfittano. Fulvia, buongiorno. No, io non approfitto, Io ho fatto un viaggio con mia sorella con 2 lire, rimanemmo senza una lira al ritorno alla stazione di Barcellona. Beh, 2 lire finiscono subito, è chiaro che al ritorno senza una lira. Ma con allora che mezzo eravate? Con che mezzo eravate? Eravamo andate con Fort Transit con mio fratello e i suoi amici, che poi si scaricarono, quindi continuammo, però con appunto veramente. Beh, gli amici è chiaro che vanno portato solo per condividere i soldi del viaggio, perché uno non può approfittarsi. Mio fratello mi ha detto venite pure, ma poi voi due ve ne andate, voi certo. Andava con gli amici suoi, le sorelle piccole. No, perché per assurdo. Lui era, diciamo, impacciato nei movimenti, che aveva le testimoni delle sorelle. Gli amici non potevano approfittarsi fisicamente delle sorelle di un amico, quindi eravate una zavorra inutile. Vanno mollato dove? Certo. Va mollato a Barcellona. No, abbiamo fatto un giro al ritorno a Barcellona, dovevamo tornare a Roma senza più soldi, siamo andati in un parco pubblico, siamo andati a raccogliere i pinoli che ci siamo divise salomonicamente. Le due sorelline, due pollicine che raccoglievano i pinolini. Poi oltretutto secche eravamo. Mangiare pinoli. Preso il treno senza neanche avere il supplemento rapido, perché non avevamo i soldi, però per fortuna non passò il controllore, insomma arrivammo a Roma. Ma tanto avreste fatto talmente tanta pena, due povere orfanelle, potete dire quello che volevate a quel punto. Però devo dire, io avevo 17 anni, a 17 anni queste cose si fanno, ora non lo farei mai più. Comunque abbastanza criminale vostro fratello, manda due minorenni in giro da sole, senza soldi, senza cibo. Cioè in quel parco dove raccoglievate pinoli vi poteva cogliere un cacciatore di scoiattoli, un maniaco, un guardone, uno con l'impermeabile. Ma devo dire che non mi è mai passata per la testa questa cosa, per fortuna. Ma per fortuna, ma avete rischiato e avete dormito nel parco da sole di notte? No, dormito nel parco no, perché venivamo da Granada, avevamo dormito in treno, ma insomma dormivamo, poi all'inizio c'era anche un'altra nostra amica, dormivamo in tre, in una e l'amica che fine ha fatto? E l'amica poi se ne andò per fatti suoi. Però dormivamo in tre con la tenda da due, quindi con i piedi di fuori, e la notte un freddo ai piedi. Quello è un classico, la canadese in tre, quello è un classico. E i piedi fuori li teneva l'amica o voi due sorelline? Non lo so, non mi ricordo. Di solito si fa turno. Sì, anche perché c'è un bel palo in mezzo alla tenda che non è che poi fa dormire, proprio dietro la nuca va a battere. Quindi non è proprio. Vabbè, questa devo dire, negli anni c'ho un bel ricordo pure. Vabbè, chiaro, anche prima ha chiamato un signore che ha fatto la legione straniera, più o meno ha fatto un'esperienza simile, quindi tutto sommato non si può lamentare. Andiamo avanti, voglio qualcosa ancora di più estremo. Marco, vediamo un po'. Marco, ha qualcosa di vacanza estrema, veramente micragnosa? Estrema, veramente micragnosa. Nei miei 46 anni di vita, come lei ha detto, il lavoraccio dell'ultimo mese, sono passato a vendere un noto alberello profumato agli impianti semaforici. Ma in che anni erano, scusi? Erano anni 78. Quindi ancora, non, c'è, ancora diciamo, non era inflazionata la sosta al semaforo, c'era solo lei? Sì, eravamo pochissimi, non c'era il fenomeno migratorio e c'era gente che vedeva questi poveri ragazzi, qualcuno se ne approfittò prendendo e scappando via, scippando l'albero e non pagando il pedaggio. Vi rubavano anche l'alberello. E quanti dovevate vendere per farvi un viaggettino? Sì, per farci un viaggettino. Poi con un amico, li vendevamo con un amico e poi si... Ma cosa c'era, un racket che vi dava gli alberelli da vendere ai semafori, di sfruttamento? No, decisamente no, c'erano dei centri un po' più grandi che distribuivano, diciamo, questi grandi numeri e si andava lì, si comprava all'ingrosso e poi si rivendeva. E come li mettevate? Un alberello per ogni mano, così faceva l'albero vivente? Qual era la tecnica di vendita? Ma la tecnica di vendita, semaforo rosso, fila, uno lato destro, uno lato sinistro, alberello in mano, chi era interessato faceva un cenno e chiamava. Ovviamente d'estate gli odori automobilistici Poi negli anni 70 non esisteva aria condizionata, quindi si puzzava in macchina, puzza di piedi, di ascelle, quindi era perfetto. Decisamente. Ma però avete fatto un'indagine di mercato interessante, avevate previsto la vendita semaforica, che poi sarà stata la maggior risorsa per tutti gli immigrati. Avete previsto che in assenza di aria condizionata l'afflore umano avrebbe intasato le macchine, quindi davate il prodotto giusto. E lei di mestiere poi che ha fatto dopo questa brillante intuizione? Ma di mestiere ho fatto tutt'altro, mi occupo di criminalistica e servo lo Stato. Volevo sottolineare una vacanza, quella più migragnosa per quale poi ho chiamato, sì. Avendo i parenti materni che sono pugliesi, mi ricordo che offrivo la mia opera come panettiere romano in terra pugliese. Andà a fare il pane in Puglia. Esatto, c'è una zia che ha tuttora un alimentari e per ovviamente fare la mia vacanza, scegliermi una ragazzina, una fidanzatina, andavo in Puglia e quindi una delle prime vacanze lavoro, cioè davo una mano al banco del pane dove... E sperava di infornare lo sfilatino, oltre diciamo... Anche però... Speranza quella era, se no... Era speranza quella, ma era fortunato, anche... c'avevo gli zii, c'avevo le pompe di benzina, quindi io potevo lavare le macchine e dare il gasolio, quello facevo, però ognuno c'ha gli zii che si merita, che devo dire, per me era veramente migragnosa la cosa. Ma risultavo anche come attrattiva perché un romano in Puglia con le battute, con la parlata insomma un po' forzata, lei romanesca... Lei parla di anni in cui non c'era la moda del Salento, la masseria, la Taranta, che il Salento era una terra desolata, ci andavano soltanto pochissimi estimatori, quindi vedere un romano nel Salento negli anni 70 era come, che ne so, vedere un cinese in Africa all'inizio del Novecento, capito? Qualcosa del genere, penso, no? Devo dire che ci siamo divertiti abbastanza. Ci credo, ha sfruttato bene, però vede, vacanza migragnosa, però allo stesso tempo è corroborata comunque da gli effetti collaterali che alla sua età erano senz'altro notevoli. Ci fermiamo un istante, 800 24 00 24, stiamo andando sulla via giusta, la vacanza massacro, la vacanza migragnosa, abbiate il coraggio di confessarvi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Melog, cronache meridiane. Come si può andare all'estero senza spendere una fortuna dei propri risparmi? Numero 1, il progetto SVE. Ho scoperto che in pochi lo conoscono in realtà. Sostanzialmente è un servizio di volontariato europeo. Voi potete registrarvi al sito, vedere quali progetti ci sono all'estero e loro, in cambio chiaramente di un servizio volontario con delle ore che avrete da lavorare, diciamo, in un altro paese, vi danno la possibilità di andare all'estero pagandovi vitto, alloggio e spese di trasporto. Quindi praticamente sarete sostenuti nello stare all'estero facendo un'attività di volontariato. Numero 2 è il progetto Au Pair. Questo è già un pochino più conosciuto forse. Sostanzialmente c'è questo sito dove voi potete mettere i vostri dati e delle famiglie vi ospitano in casa loro in cambio di qualche servizio in casa, qualche insomma aiuto nel tenere spesso bambini, i figli di famiglia insomma. In più molte famiglie vi danno anche un piccolo budget settimanale, quindi vi entra in tasca anche qualche soldo. Queste due modalità sono accessibili allora, a chiunque. Queste due modalità suggerite dall'ottimo amico sul canale YouTube Joss, che serve appunto a segnalare sistemi per fare delle vacanze etiche, sì, va bene, ma mentre io posso far finta di essere convertito e faccio il cammino camminando a piedi, lì devo lavorare, faccio volontariato, mi danno, non so, un anziano da accudire, un bambino da accudire, vado au pair in una famiglia, sì, mi danno lo straccio da per terra, mi danno lo scopettone per pulire il bagno, e se no non mi danno vitto e alloggio e mi daranno anche una piccola mancetta, va bene. Però la migragna in qualche maniera deve essere tale la voglia di risparmio da compensare il fatto che lì tocca lavorare, non ci sono storie. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, come va Nicoletti? Tutti mi chiedete come va, perché c'ho l'aria malaticcia, giravoce, no, che sto male. Ma come mai, è il mio modo di non chiedo, no, oggi per la seconda. No, no, scusi, me lo domando perché la seconda persona me lo chiede. Dalla mia voce rotta, dalla commozione, dalla disperazione, sentite il preannuncio di qualche grave malattia? Non lo so, ditemi. No, può tanta essere. Tanta buona salute e tante vacanze. Aspetti un attimo. Bene, per lei. Sì. Senta, io lancerò i giorni prossimi sui social un invito. Cerco una persona che voglia venire con me pagando il 50% a Međugorje. Io non credo nella Madonna e credo, ancor meno credo che la Madonna appaia a Međugorje. Voglio vendarci invece con uno che ci crede, ma c'è un prete, una donna, una suora. Ma lì ne trova quanti ne vuole, può andarci anche da solo. Ne basta uno. Sì, ma basta se lei va da solo a Međugorje, ne trova... Ah, lei vuole andarci a piedi dall'Italia a Međugorje? No, no, che cavolo. Un bel giro, io, lo si può fare, macchina, Deve salire su per scendere giù. Io, no, ma stiamo là 10 giorni, dal 20 al 30 di agosto. Lei vuole ma lei vuole un compagno o una compagna? Non mi interessa, può essere un prete, una suora, un uomo, una donna, un vecchio, Ma lei vuole il suo scopo, qual è? Dividere soltanto il viaggio? Il mio scopo è cercare di convincere il mio passeggero o la mia passeggera che non è vero, che è tutta una grande storia, è tutta una grande balla, è tutta una grande cosa Giuseppe. Che ha messo in moto in Italia un prete matto di Bergamo. Vabbè, comunque detta questa, che in questo momento è fuori tema. Come fuori tema? No, sto parlando di vacanze micragnose, lei mi parla di una battaglia lecista. Lei ha detto micragnose e poi ha detto una cosa un pochettino brutta. Più brutta, dica, cosa ho detto? No, lei prima ha detto chi fa la vacanza micragnosa o chi fa la vacanza avventurosa, non so, questa per me è una vacanza avventurosa. Lei scusi, Giuseppe, lei ha una missione che vuole svolgere, vuole convincere le persone che il miracolo di Međugorje in realtà è una costruzione fittizia, a scopo commerciale. E ci sta, ognuno può prendersi tutti gli incombenti, ma non fa prima andare da solo a Međugorje, si mette un rozzo saio, va su una piazza e urla tutti, la Madonna non appare e ne prende le conseguenze. Non credo assolutamente a tutta quella storia lì. Sì, vabbè, ma questo ci sta, è lecito, benissimo, ma perché invece di portarsi una persona per tutto il viaggio, pagare il viaggio, prende, va, sale su un qualsiasi autobus di pellegrinaggio a Međugorje, ne partono a fantamilioni. A me basta convincere una sola persona. Una sola. Vabbè, come quelli che... basta cercare quelli che cercano un giusto per tutta la vita, lei cerca una persona rendere attivamente consapevole del fatto che a Međugorje non appaia la Madonna. Vabbè, prendiamo atto del suo appello. Può essere una maniera comunque attribuirsi una missione sociale, etica, epocale, e in fondo aver qualcuno, suora, prete, compagno, che paga metà del viaggio. Ci sta. Lorenzo, buongiorno. Ah, buongiorno, salve. Le mie vacanze a risparmio per un paio di anni sono state con la moto. Un po' di benzina, un cambio e sono partito. Ciao. Pronto? Sì, la sto ascoltando, sì. Quindi niente, un po' di benzina, un cambio, mi sono fatto le coste dell'Adriatico, del Tirreno, ho girato il Lazio, la Toscana, l'Umbria. Beh, diciamo, l'aspetto micragnoso dov'è? Perché andare in vacanza in moto è una bella vacanza. Dormiva sulla moto, cosa faceva? Sì, diciamo che tendenzialmente i campeggi vogliono farti pagare il doppio, perché sei da solo e quindi gli occupi un posto per due, ma sei da solo. Quindi non conviene andare in parcheggio, in campeggio? In campeggio, beh... ma sulla, diciamo in macchina capisco si dorme, ma sulla moto come si dorme? Steso sul serbatoio e sul sellino? No, avevo la tenda e il sacapello legato, però poi alle volte mi sono arrangiato, non so, parcheggiavo la moto in centro del paesino, poi dormivo dentro un fosso, in spiaggia, nella pineta, nei boschetti, hai capito? Ma non faceva prima, la moto poteva fare un po' di fuoristrada, si avventurava in un boschetto... No, io ho un custom, per cui la lasciavo in paese o da qualche parte, poi non si dorme mai in realtà, però... Perché poi gli fregano la moto, in realtà il vero problema è che ti fregano la moto. Beh, no, più che altro che facendo il viaggio in solitaria, insomma, non si sa mai chi ci possa essere dentro una pineta, un bosco... Cioè, la stuprano e le rubano la moto, ancora più grave, è questo. Oddio, non credo, perché sono abbastanza... Che vuol dire? Passa lo Yeti, passa, che ne so, il Big Fit, cioè ci può passare tutto, capito? Sì, no, è stato molto bello, molto avventuroso, risparmiato... Ma per mangiare come si arrangiava? Ma basta fermarsi un alimentare, farsi un panino sì. così, niente di quello che mi interessava era una schizzata di olio motore su della rozza insalata colta per strada e via. Sì, perfetto, è quello che ci vuole. Va bene, grazie. Comunque già qualcosa, una vacanza in moto, però non una vacanza in moto gloriosa con donne al seguito nel sellino dietro, amici con l'Harley Davidson che si arriva rombando nelle hall degli alberghi, mi dia una suite, capito, e si va lì. No, una vacanza con la moto, si dorme nei fossi, si dorme dentro dei posti rimediati e si mangia quello che capita. Alessio. Ah no, sì, no, sì, Alessio, avanti Alessio. Sì, sono Alessio. Noi siamo esperti in vacanze micragnose, come oh, finalmente, prima. Che finora sono state vacanze micragnose a metà, non proprio micragnose. Me ne dica una bella, veramente, veramente. Beh, micragnosa. Veramente micragnosa, abbiamo passato 15 giorni tra Olanda e Belgio sfruttando un'amicizia che abbiamo lì. Ovviamente gli unici soldi che abbiamo speso è stata la benzina per arrivarci e poi qualche compra al supermercato per passare. Ecco, ma l'amico dov'è? In Olanda o in Belgio? Perché aveva due case, come funziona? No, l'amico è in Olanda, poi il Belgio era proprio a due passi, quindi si visitavano due paesi in un colpo solo. E tornavate la sera a dormire la sera tornavate a dormire in Olanda? Sì, esatto. Ah, comunque, andavate in Belgio? Si vede un po' tutto. State vicino al confine. Il giorno andavate in Belgio e la sera tornavate a casa in Olanda, ripassate. Quanto avete speso in questa vacanza micragnosa? Una media? Beh, noi siamo in quattro perché abbiamo due ragazze, quindi... Ah, due coppie? Sì. E l'amico no, siamo io la moglie, la bambina più piccola ha 6 anni e una da 13. Ah, quindi una bella tutto... famigliola scoccona. E l'amico vi ha accolto tutti e quattro felicemente? Sì, sì, perché ci siamo conosciuti tempo fa, anche lui è stato ospite nostro, quindi... Ah, beh, quindi c'è un dot d'est, non è stato... Esatto, sì. Ah, beh, si chiama scambio di ospitalità questa cosa. Eh sì, diciamo che è il metodo più efficace per risparmiare. Sì, però non è uno scocco, non è uno scocco. Voi l'avete ospitato, lui quante figlie ha? No, lui era da solo ed è stato molti meno giorni a casa nostra. E quindi nostra, 4, non... 4 a 1 il rapporto, beh, allora è un po' sbilanciato. Poi noi siamo andati per 2 anni di fila a fare questo viaggio. Cioè, lui è passato 10 minuti a casa vostra, ha detto posso fare la pipì, scusate. Esatto. È tratto 5 minuti e voi andate per 2 anni tutta la famiglia, ospite, esatto, a mangiare, sì, bere e dormire. Vabbè, ci sta. Ecco, è perfettamente... La spesa è stata sui 500 euro tra andata e ritorno e giri e ci quanto, vari, vari. Quanto tempo? Sui 15 giorni entrambi, entrambe le annate. 100 euro a testa, 15 giorni all'estero, viaggio compreso, mi sembra che è un buon budget, sì, è un buon budget sicuramente. Non ci va nemmeno, che ne so, a Frascati 15 giorni, 4 persone con 100 euro, va benissimo. Luca, buongiorno, a Frascati da Roma, non che non sia posto degno di essere visitato. Sì, buongiorno. L'estate del 97, appena laureato, 25 anni, mi regalarono 1,5 milioni. E ci feci tutta la Cina con un mio amico, avevamo solo il biglietto di arrivo a Pechino e ritorno da Hong Kong e dovemmo raggiungere Hong Kong da Pechino, fu un'avventura veramente pazzesca. Beh, fu un bel investimento, ha visitato la Cina poi in un momento anche particolare, la Cina di quegli anni non è la Cina di adesso. Indimenticabile, per mangiare andavamo ai ristoranti, guardavamo quello che c'erano nei piatti dei vicini e lo chiedevamo perché non c'erano menù in inglese, non c'era niente. La nostra Lonely Planet era un tesoro, a Shanghai la scordammo sul treno. Feci una corsa per tornare a prenderla, che se la perdevamo eravamo finiti completamente. Pensi il vicino più... mangiava serpenti, topi, cani, sì, queste cose? No, non lo so, quello che vedevamo, c'erano gli acquari dove ti prendevano i pesci e te li cucinavano lì per lì. Era vabbè, cosa... però anche a Roma ci sono le aragoste sott'acqua, la scegli, sì, poverina. Il viaggio più bello però una notte di 500 km spendendo circa 5.000 lire dell'epoca sullo sleeping bus, l'autobus con i letti a castello. Senza materasso, con i massetti dove si ruppe pure. Cioè con la rete, sulla lunga rete stavate? Sì, su una rete. Tutti i cinesi si ruppe durante la notte, ci fermammo in un villaggetto. Ma vi alzavate a Losanghe praticamente? No, distrutti, fu un viaggio. L'ultima notte a Pechino, l'ultima notte a Hong Kong, arrivati finalmente a Hong Kong dopo aver girato in tutti i modi, treni, autobus, aerei, zero perché non avevamo i soldi. Ci fermò la polizia, ci svegliò, dice ma cosa fate voi qui? E noi dormiamo perché avevamo finito i soldi, non avevamo più soldi per l'albergo e quindi l'ultima notte l'abbiamo passata per strada a Hong Kong con la polizia che ci ha svegliato e ci ha detto grazie della vita, arrivederci, potete andare a casa. E come vi siete rimpatriati poi? Vanno rimpatriato? No, no, avevamo il biglietto, eravamo arrivati finalmente a Hong Kong perché avevamo, e il nostro scopo era quello di raggiungere Hong Kong da Pechino e l'avevamo raggiunta e c'avevamo il biglietto d'aereo di ritorno a Roma. Beh, comunque avevamo... una vacanza avventurosa è stata. Assolutamente, indimenticabile, trovo una delle vacanze più... Ma avete fatto qualche amicizia, conosciuto qualche assolutamente. Cinese? Assolutamente, abbiamo conosciuto tantissimi israeliani che andavano in giro per il mondo dopo il militare e quindi scappavano 6 mesi, 1 anno in giro per il mondo a fare esperienza. Infatti a Gilin abbiamo mangiato il serpente insieme a questi israeliani in un ristorantino di due insegnanti di Kung Fu, i fratelli Gao, mi ricordo ancora, che ci ospitarono. L'Accademia Gao, la famosa Accademia Gao di Kung Fu. No, questi ci dissero che erano degli insegnanti di Kung Fu per la nazionale cinese di Kung Fu. Di Kung Fu, ma questo non so se era da credere o meno. E il serpente chi l'ha pagato, gli israeliani o voi? Il serpente praticamente ce l'hanno liberato tutto il ristorante dai tavolini e hanno liberato questi serpenti vivi dentro il ristorante, perché i tavolini li avevano messi fuori e noi che avevamo visto questi serpenti poi li hanno presi e sono andati in cucina. Ah, il gioco è uno acchiappa il serpente e poi se lo può mangiare? No, quelli li acchiapparono loro perché erano pure velenosi e quindi li acchiapparono loro. Uccisero e ci fecero vedere come li cucinavano dentro la cucina, fu un'esperienza. Prelibatezza. Levavano il veleno e lo mangiavate. Assolutamente. Ma come uno spaghettone gigante, così si mette tutto insieme in bocca o si taglia a pezzi? No, lo tagliavano a pezzi, lo cucinavano a pezzettoni e poi li mangiavi come. Quando uno c'ha fame si mangia anche i topi, i sorci, figuriamoci il serpente. Un'esperienza veramente splendida. Va bene, è stato fortificato sicuramente nella vita da questa esperienza. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Ti piacerebbe viaggiare gratis in tutto il mondo? Grazie ad internet e al volontariato non è più un'utopia. Come? Beh, il primo sito da visitare è Workaway. Come funziona? Semplice, puoi abitare presso alcuni villaggi, dalla Costa Rica all'Australia, aiutando famiglie di contadini a raccogliere ad esempio la frutta o per qualche lavoro domestico. Su housecarers.com invece ci si candida come house sitter, ovvero si custodisce la casa di qualcun altro che in quel periodo si trova in vacanza. In cambio, godrai di tutti i comfort della casa in posti spettacolari. Ecco, quest'ultimo suggerimento non è male, alla fine non bisogna lavorare. Ti danno una bella casa e tu stai nella casa tranquillo, ospite, provvedi che non entrino ladri, non succeda nulla. Come a casa di Manuel Fantoni, può succedere di tutto poi. È una casa bellissima, anche far finta di essere il ricco epulone che vi ha dato questa casa. Giacomo, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti. La sua vacanza massacro micragnosa? La mia vacanza massacro è stata nel 2008, ho fatto Giordania, Egitto, Israele con 1.400 euro voli compresi per circa 20 giorni. Dove tagliava? Nel cibo e nel dormire? Tagliavo nel cibo e nel dormire, tant'è che ho dormito in macchina svariate volte, poi su tetti degli alberghi perché ovviamente si pagava meno e poi perché affittano anche il tetto per dormire? Sì, assolutamente. Cioè assolutamente. La massima micragna dopo la stanza nello scantinato della caldaia è il tetto? È il tetto, sì, all'aperto. È anche più fresco in realtà, ci si sveglia alle 5 del mattino però è anche più fresco. E si dorme per terra, sulla nuda terra? Si dorme, sì, su dei tappeti che hanno una carica batterica non indifferente. Puzzeranno di piedi, di sudore di 70 generazioni. Abbastanza. A Gerusalemme ho dormito poi una notte perché lì ero veramente alla canna del gas sotto le mura della città vecchia, sono stato svegliato dai soldati alle 5 del mattino che mi hanno perquisito, controllato i documenti, trattenuto circa un'oretta e poi mi hanno lasciato andare. Ma lei va a dormire proprio in un luogo diciamo sacro, di culto? Ma allora no, era vicino al muro, era la parte diciamo esterna. Ma non sotto il muro del pianto? Come no, non sotto il muro, no, gli accessi sono controllati. No, anche perché c'è spazio diciamo nella città vecchia, ci sono ogni tanto, c'è qualche archetto, qualche angolo, qualche vicolo, uno si può nascondere proprio sotto il muro del pianto e andarsela a cercare proprio. Scusi, ma lei poteva andare allora dove sta il Santo Sepolcro, c'è un sacco di gente lì. Ci sono i copti, ci sono tutti. Comunque segnalo il Petra Hostel, che è un alberghetto di Gerusalemme, dove ho dormito una notte perché era l'unico alla mia portata, dove al posto del WC c'era un buco in mezzo al pavimento e quello era la toilette, diciamo. Però si pagava meno, tutto sommato. Si pagava meno, sì, tutto sommato sì, un affare. Se anche lei faceva il militare, anche nelle caserme italiane, fino agli anni 80 c'era un buco nel pavimento, infatti. Che era molto diverso. Va bene, grazie, ottimo massacro, con il rischio dell'addormentata nella spianata del muro del pianto, che si rischia molto. Antonello. Eccomi, sì. Allora. Buongiorno. La sua vacanza massacro. Allora, io ho fatto a piedi sulla via Francigena da Viterbo a Roma, sempre ospite di conventi, monasteri che chiamano donativi, nel senso che tu dai quello che puoi. E lei che dava? 5 euro, 10 euro, se non puoi non dai niente. E lei dava niente, naturalmente. Beh, io qualcosa ho sempre cercato. Pochi di dare. Pochi spiccioli. Per poter allora, però lei sta dando un bel consiglio, scusi. Una vacanza romana a poco prezzo, uno deve prima far finta di convertirsi, sì. No, diciamo che io ho fatto il camminatore con lo zaino, anche lungo il percorso, il camminatore sotto il sole che fatica fa molta simpatia e molto spesso vieni quindi accolto a pranzo, a cena, ti viene offerta la frutta o da mangiare. Quindi conviene, perché diciamo uno fa molta pena, poi la gente pensa che sta facendo un cammino di espiazione, quindi si sentono tutti irradiati dalla grazia che lei sta accogliendo in sé. Esatto, diciamo una vacanza migragnosa ma ricchissima interiormente. Ah beh, lui andava con una vera vocazione, lei non è che fingeva. No, la vocazione è un po' essere con se stessa, ascoltare i propri pensieri, camminare senza fretta, senza tempo, senza limiti e senza soldi, perché si mangia e si dorme veramente. Ma guardi, se uno resta a casa a sentire gli improperi della famiglia, sbattere la testa sul muro, dire brutte parole, farsi venire la gastrite, forse è meglio farsi una bella passeggiata a Viterbo Roma. Uno si fortifica, risparmia la palestra, per strada trova donzelle illuminate dalla grazia di questo uomo che si sta mondando l'anima, oppure trova anche diavolesse tentatrici che vogliono interrompere questo cammino, e poi ogni tanto si ferma al convento sperando che non sia quello di sta pioggia di sto vento, e dà un obolo simbolico, prende ciò che c'è da prendere e torna tranquillamente felice a casa. Mi sembra un'ottima soluzione. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Niente, la mia vacanza è un ricordo con mio fratello in catamarano in Croazia. Noi abbiamo un catamarano. Pronto? Sì, sì, l'ascolto. Un catamarano a vela di 6 metri. Beh, c'è un investimento a monte da fare comunque, senza catamarano. No, non vabbè, si fa. Noi facciamo le regate, ma all'epoca, adesso l'abbiamo rimesso a posto, allora nuovo, sono barche che sì, costano, però l'avevo pagato 2-3 mila euro, non tanto. Beh, non è proprio una vacanza micragnosa. Non è micragnosa, era se rubavate il catamarano a un altro, se vi attaccavate sotto. Se si gira la Croazia, isola per isola, senza fermarsi, senza pagare i posti per il posto barca, senza pagare il ristorante. E come facevate a non pagare? Non paga il catamarano? Non paga il catamarano perché è sotto una certa metratura e non ha il motore. E questo è. Quindi tutto a vela e a remi andavate? Tutto a vela come 500 anni fa, o a remi. Sì, quanto ci avete messo? 15 giorni? Beh, 15 giorni. L'idea del piano originario era di arrivare fino in Albania, partendo da Spalato. Ci avete fatta più. Il problema è che facendo cabotaggio ci si ferma di porto in porto, scroccando tra i pescatori il posto, cercando di risparmiare il più possibile. Avremmo speso, non lo so, 500 euro quell'estate. Ma cosa mangiate? Pescavate pure, pescavate lungo il viaggio? Con la lenza. Pescare non tanto, anche perché dopo come fai a cucinarlo il pesce? Perché sei a bordo e non hai una cabina, non hai nulla per cucinare. Si mangia crudo, fornello, che domande, si fa il sushi, si taglia a pezzi. No, si andava avanti con minestrine leofilizzate, quelle che si compravano a 2 euro e si cucinavano con lo stesso fornello, cioè con la lampada a gas che si usa per il campeggio, la usavamo sia per l'illuminazione sia per cucinare. Ci potete scottare un pesciolino, scusate, lo sfilettavate, lo scottavate di sopra, è sempre meglio, un po' di sale. Un po' di limone, meglio la minestrina. Il problema è che se finisce il vento siamo rimasti 3 giorni fermi in mezzo al mare. Soffiavate sulla vela, che facevate? No, si aspettava, cioè o si stava sotto il sole. Aspettavate la morte, perché è come un film. Si dava di matto, sì, si dava di matto, mi ricordo questa cosa. Che vabbè, avete rischiato la vita, ma avete avuto una bella avventura. Fabrizio, vediamo un po', stiamo analizzando tutte le modalità di viaggio micragnoso. Fabrizio. Sì. Buongiorno Nicoletti. Lei come la organizza, la vacanza del risparmio? Ma guardi, io adesso non è esattamente micragnosa, però è un modo anche per risparmiare, perché io e la mia compagna abbiamo la passione della bicicletta, quindi ormai da tanti anni andiamo a fare cicloturismo. Partiamo in bicicletta, possibilmente da casa, quando è possibile, e altrimenti prendiamo un treno, e poi dopo facciamo chilometri, tendina, sacco a pelo, materassino, durante il giorno, siccome si fanno tanti e tanti chilometri, praticamente non si mangia se non qualche gelato, la sera ci si organizza nei campeggi con qualcosina, vai a fare una microspesa e alla fine noi siamo tra l'altro tornati da una decina di giorni, abbiamo fatto il periplo della Sardegna in bicicletta. A tutta la Sardegna avete fatto? Chilometri. Complimenti, quant'è di chilometri? Quanti chilometri avete fatto? 1345. Ci avrete i calli nel sedere, lei e sua moglie? Beh, insomma, Diciamo che ci abbiamo fatto l'abitudine, però è stata un'esperienza straordinaria, perché vedere la Sardegna in questo modo, in bicicletta, isole comprese, perché ci siamo fatti anche ma c'era un progetto una volta, qualcuno, non mi ricordo bene chi, aveva pensato una pista ciclabile per tutto il periplo della Sardegna, qualcuno azzardò questa cosa, poi non se ne parlo più. Ma infatti alcuni pezzi qua e là si trovano, però in realtà c'è molto poco, e loro secondo me dovrebbero fare di più per incrementare questo genere di turismo. E dopo chi ci va negli alberghi? Scusi, la Sardegna vive su quello, chi ci va nelle discoteche, chi ci va nei locali? Tutti in bicicletta lì pedalano e si mettono sulla spiaggia? No, assolutamente no, niente bicicletta. Alberghi, discoteche, serate a guardare i VIP, questo vogliono. Mario, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Allora, chiudiamo con lei, veloce, perché c'è pochi minuti, un minuto. Estate 1994, ero con un amico, entrambi di Napoli, avevamo pagato una vacanza al Club Med di Cefalù, che aveva dei bungalow per una settimana, e finita la settimana ci siamo in qualche modo procurati i braccialetti con cui si accedeva a tutti i servizi, certo, della struttura, e siamo rimasti una settimana imbucati nella struttura, divertendoci di più della prima. Vi siete mimetizzati con dei braccialetti rubati, taroccati? Sì, sì, un amico che era riuscito a recuperare questi braccialetti, e noi poi abbiamo lasciato le valigie in bungalow di persone che avevamo conosciuto lì, e dormivamo tutte le sere o in piscina. Abusivi, in abusivi nel villaggio vacanze. Con dei braccialetti lasciati da due ricchi che li buttano via per gli avanzare una settimana, ma cosa ci importa una settimana, buttiamoli via. E te prese, te scroccato una settimana vivendo, mangiando, dormendo e forse anche trombando alla faccia del Club Mediterraneo o Club Vacanze, quale che sia. Vabbè, grazie, ottime idee, ottimi consigli, mi organizzerò anche quest'anno, starò a casa.